Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Nel decreto competitività del governo dello scorso giugno sono state finalmente chiarite alcune questioni rimaste a lungo sospese intorno ai cosiddetti SEU, sistemi efficienti di utenza. Un SEU in pratica è una configurazione per cui un soggetto giuridico unico, per esempio un'impresa o un gruppo societario, consuma energia elettrica autoprodotta oppure prodotta da un terzo che però deve produrla sempre all'interno dell'area di proprietà dello stesso consumatore. In questi casi, vista la concomitanza di produttore e consumatore di energia, evidentemente si può fare a meno della rete elettrica, con il vantaggio di evitare le dispersioni dovute alla trasmissione dell'energia. Nei casi in cui poi vi sia cogenerazione, il vantaggio è ancora maggiore, dato che si sfruttano localmente sia l'energia elettrica che il calore di scarto prodotto dal processo. Ci sono, insomma, ottime ragioni per volere le estensione di questo modello, ma ci sono anche ragioni che lo sconsigliano e comunque, come dicevamo, c'è qualche novità. Ne parliamo con Tommaso Barbetti, socio di Elements, società di consulenza esperta di mercato elettrico ed energia, in particolare di fonti rinnovabili ed efficienza. Buonasera Tommaso. Ciao Maurizio, buonasera. Allora, intanto Tommaso, forse bisogna completare un po' questa descrizione che facevo delle SEU e poi se ci fai capire i vantaggi e anche però le controindicazioni. Perfetto, in realtà l'hai descritto molto bene un SEU. Siamo in presenza di un SEU quando un consumatore, che può essere un'azienda ma può essere anche un privato, invece di acquistare energia elettrica dalla rete, la acquista da un impianto, che può essere un impianto alimentato da fonti rinnovabili o in cogenerazione ad alto rendimento, con una potenza massima di 20 mega, acquista energia da questo impianto mediante un collegamento privato, senza passare dalla rete pubblica. Ecco, quali sono i vantaggi, anche di tipo economico, io non ne ho parlato, e quali sono però le controindicazioni se questo modello si dovesse espandere, dilagare? Beh, quando noi, un consumatore tradizionale, con un modello tradizionale di consumo, acquista energia elettrica dalla rete, paga sostanzialmente due macro componenti. La prima è la componente energia, che è proprio relativa al prezzo di produzione dell'energia, che rappresenta orientativamente intorno al 40% del costo finale. La seconda è una componente parafiscale, che rappresenta tutti quegli oneri che sono connessi al sistema elettrico in generale. Quindi ci abbiamo dentro due parti principali, che sono la prima, gli oneri generali di sistema, voce principale più nota, gli incentivi alle fonti rinnovabili. La seconda, gli oneri per l'utilizzo della rete, rete di distribuzione, rete di trasmissione. Questo è quello che uno paga il consumatore quando acquista energia elettrica direttamente dalla rete pubblica. Quando invece si acquista energia elettrica all'interno di un modello SEU, quindi la si acquista all'impianto con le caratteristiche che abbiamo descritto prima, non andiamo più a pagare nessuna di queste componenti. Quindi il prezzo è dimezzato praticamente, no? Il prezzo è più che dimezzato. E uno dice, bellissimo, facciamo tutti la SEU. Lo teme anche l'autorità però, se facciamo una SEU. Teme il dilagare di modelli SEU, che naturalmente comporterebbe una sorta di fuga dal contatore, ossia noi ci troveremmo a pagare la stessa quota di oneri generali di sistema, perché per esempio gli incentivi alle rinnovabili, quelli sono per 20 anni, 10 miliardi all'anno, quelli rimarrebbero, non è che diminuirebbero, però ce la troveremmo a pagare in meno, perché molti non la pagherebbero più avendo fatto il SEU. E tra l'altro chi ha la forza, magari anche economica, di mettere in piedi questa infrastruttura risparmierà, e quelli poveracci magari che non ce l'hanno finirebbero per pagare di più. E questa è la preoccupazione, che è anche un po' oggettiva, insomma. La preoccupazione è senz'altro oggettiva. Ecco, è senz'altro oggettiva. C'è anche un altro dato di fatto, diciamo, che questo modello si scontra con gli interessi dei distributori e del gestore della rete di trasmissione. Certo. La rete sarebbe sottoutilizzata, l'investimento è stato fatto. In tutto questo c'è però appunto una novità che ha qualche mese di vita, di cui forse si cominciano anche a intravedere i primi effetti. Ci spieghi? Sì, le novità sono certamente positive, perché qualcuno temeva che l'autorità e il governo potessero imporre il pagamento del 100% di questi oneri. Invece viene imposto solo una piccola percentuale, che è il 5%. È vero che questa percentuale aumenterà nel corso degli anni, ma ciò avverrà con gradualità. E soprattutto non ci sarà nessun effetto retroattivo, cioè la percentuale degli oneri pagata nell'anno in cui viene costruito il SEU rimarrà la stessa per tutta la vita dell'impianto. Insomma, mancano in questi settori una marea di decreti attuativi, tra l'altro ne parleremo in una delle prossime puntate, ma almeno su questo, in questo momento, c'è una visibilità, possiamo dirlo, di lungo periodo sugli economics, sulle condizioni economiche per qualunque operatore voglia entrare in questo mercato. È esattamente così. Grazie Barbetti. Ciao Maurizio, grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.